tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate. Questo mese Ponte Radio si dedica ad approfondire la tematica del lavoro. Il lavoro inteso come lavoro salariato è centrale nelle nostre vite. Lo è anche se non lo vogliamo, come ricatto, come costrizione, come fonte di nocività. È la società capitalistica, più che una qualche repubblica, ad essere fondata sul lavoro e sullo sfruttamento ad esso connaturato. In questo senso, parlare di lavoro significa anche parlare della quotidiana guerra di classe, che si consuma nei luoghi dello sfruttamento. Una guerra che ha i suoi feriti, i suoi morti e anche i suoi prigionieri. Allo stesso tempo, in un contesto di guerra dispiegata tra gli stati come quello in cui viviamo, il lavoro risente della mobilitazione verso il conflitto, perché ne parte integrante. Ci deve essere una retrovia funzionante perché ci sia una prima linea operativa. Questo avviene sia nella gestione militaresca degli scioperi, pensiamo a quelli recenti dei ferrovieri e a quelli dei facchini, che costituiscono un pericoloso fronte interno, sia nell'incremento della conversione bellica dell'economia, base imprescindibile per l'allargamento dello scontro tra NATO e Russia e potenzialmente Cina. L'economia si configura sempre di più come economia di guerra e come guerra alle classi subalterne. Proprio il blocco dell'economia sta emergendo come obiettivo concreto per fermare il genocidio in corso in Palestina ad opera dell'asse israelo-statunitense e dei loro complici occidentali e medio orientali. Questo avviene nelle forme del boicottaggio, dei blocchi degli snodi logistici, delle occupazioni che interrompono il lavoro della ricerca universitaria. Il movimento di solidarietà alla Palestina e contro il genocidio ha rivitalizzato così anche la data del 1° maggio, simbolo occasione storica di lotta schiettamente internazionalista. Se la capitolazione del movimento operaio di fronte alle sirene dei nazionalismi fu la precondizione al primo massacro mondiale, oggi ci troviamo in una situazione non dissimile. Si può aderire alla mobilitazione bellica oppure sabotarla. Nella puntata di oggi parleremo di quanto succede nei magazzini della logistica, del ruolo della logistica in particolare portuale nella movimentazione delle armi e delle mobilitazioni contro le fabbriche che in Italia le armi le producono e le mandano alla linea del fronte. They go wild, simply wild over me. Though I've never done them harm that I can see. I'm as gentle as a lamb, but they take me for a ram. They go wild, simply wild over me. Oh, the cop, he went wild over me. And he held his gun where everyone could see. He was breathing rather hard when he saw my union card. He went wild, simply wild over me. Then the judge, he went wild over me. And I plainly saw we never could agree. So I let the man obey what his conscience had to say. He went wild, simply wild over me. Then the jailer, he went wild over me. When he locked me up and threw away the key. Oh, it seemed to be the rage to keep me in a cage. He went wild, simply wild over me. Now they go wild, simply wild over me. I'm referring to the bed bug and the flea. Oh, they murmur in my sleep. They disturb my slumber deep. They go wild, simply wild over me. The willow roses grow wild over me. When I've gone into the land that is to be. When my soul and body part in the stillness of my heart. Wild over me. Well then God, he went wild over me. When I knelt beside the throne on bended knee. When the angels turned to yell, they shot me down to hell. They went wild, simply wild over me. E quest'anno il 1° maggio è stata una data di lotta, sia in Italia sia alla vigilia con una serie di scioperi soprattutto nel settore della logistica, sia poi la giornata stessa del 1° maggio con manifestazioni come quella anche al porto di Mestre contro Fincantieri, azienda bellica navale. E dicevamo appunto, la logistica è un settore dove in Italia negli ultimi 10 anni ci sono tantissimi scioperi, molte vertenze anche molto dure, e da vari mesi a questa parte, da fine dell'anno scorso, c'è una vertenza anche nel Veronese, in Veneto, che nell'ultimo periodo, diciamo, è rimasto un po' al di fuori da questa forte conflittualità, e parliamo della vertenza del Maxi D di Belfiore fra Verona e Vicenza, un magazzino di proprietà della famiglia Brendolan, che in cui sono susseguiti una lunga serie di scioperi, anche con delle situazioni abbastanza, diciamo, esasperate e pesanti. L'episodio più noto anche a livello nazionale è quello della guardia giurata che ha puntato una pistola contro il picchetto dei lavoratori, ma ci sono state anche tante altre piccole provocazioni e prepotenze. L'ultima di qualche giorno fa è i carabinieri locali che distribuiscono moduli per la denuncia ai camionisti bloccati dallo sciopero. E adesso, oggi avremmo voluto ospitare qua in studio dei lavoratori proprio del magazzino, ma per dei problemi che sono sorti questo non è stato possibile. Recupereremo probabilmente, sicuramente più avanti. Intanto mandiamo un audio registrato da Radio Onda Rossa che approfondisce la questione intervistando una sindacalista. Ed eccoci, torniamo in voce. Abbiamo con noi una compagna del SICOBAS, la sentiamo da Verona, in particolare dall'area industriale, per una lotta che lavoratrici e lavoratori stanno portando avanti da tempo. Pronto? Sì. Ciao. Ciao. Allora, intanto, se ci vuoi raccontare dove siete e appunto qual è la situazione della lotta che state portando avanti da tempo, e poi qual è la situazione di stamattina. Praticamente noi siamo presente come SICOBAS dell'anno scorso, fine di maggio dell'anno scorso, che abbiamo iniziato questa battaglia, appunto perché i lavoratori hanno scelto il nostro sindacato, però subito non sono stati riconosciuti. Ci abbiamo trovato praticamente un muro davanti a noi, perché noi appunto stiamo parlando di un magazzino, del magazzino Maxi D di Belfiore, della Maxi D del Belfiore, che ha avuto un nuovo padrone, diciamo, negli ultimi periodo. Praticamente l'anno scorso è stato fatto, c'era il vecchio fornitore, e dopo parecchi scioperi che noi abbiamo fatto, il committente aveva deciso di cambiarlo, e saranno da febbraio di quest'anno praticamente hanno cambiato il fornitore, hanno fatto entrare un nuovo fornitore, ed è comunque, noi non siamo venuti neanche riconosciuti neanche con il nuovo fornitore. Abbiamo fatto anche parecchi incontri in prefettura, anche in questura con il questore, che a un certo punto siamo arrivati del riconoscimento del sindacato, però il problema grave è che hanno licenziato un lavoratore all'interno del magazzino, quindi per noi è un po' inaccettabile il fatto che ci riconoscono come sindacato ma licenziano i lavoratori. Il lavoratore viene licenziato per la sua attività di lotta? No, praticamente il lavoratore ha avuto un infortunio all'interno del magazzino, è rimasto incastrato tra la ribalta e il camion. Lui ovviamente ha denunciato sto fatto e subito dopo è venuto licenziato con la scusa dello sciopero e tutto il resto, ma lo sciopero non c'entrava assolutamente nulla. Si trattava di sicurezza sul lavoro in un paese dove muoiono 4 lavoratori il giorno, l'Italia, e questo lavoratore quindi è stato licenziato, diciamo, perché ha denunciato un infortunio. Diciamo che la sicurezza all'interno di questo magazzino non esiste proprio, perché succedono anche 2-3 infortuni al giorno. Quindi la sicurezza non esiste, anzi addirittura quando noi abbiamo sollevato il problema c'erano i capi impianti che dicevano va bene, non fa niente se muore una persona, avanti con il prossimo, perché c'è sempre qualcuno pronto ai cancelli che lo facciamo assumere, quindi come sicurezza è veramente una situazione disastrosa. ma anche per il fatto che anche i lavoratori li obbligano di movimentare 200 coli all'ora, che comunque hanno un peso fino ai 20 kg, e se loro praticamente non stanno movimentando questi coli, le arrivano subito la lettera di contestazione e subito dopo vengono sospesi per 5-10 giorni senza paga. Quindi la sicurezza non esiste proprio in questo magazzino. Senti, di che magazzino si tratta e quanti lavoratori e lavoratrici ci sono? Si tratta di un magazzino di 600 persone che hanno 4 reparti: ortofrutta, i latticini, il secco e anche un reparto di abbigliamento. E il lavoro com'è distribuito? Oggi è sabato, voi state protestando, quindi vuol dire che in quel magazzino si lavora anche oggi? Sì, sì, loro lavorano anche di domenica, sui due turni. Su due turni? Poi che sono i due turni? Non ho capito, scusami. Sono due turni di quante ore? Praticamente dipende, perché chi non è disponibile, anzi non che non è disponibile, i lavoratori fanno anche fino a 15 ore, fino a 17 ore di lavoro, e se qualcuno si rifiuta di fare straordinari, praticamente il giorno successivo le arrivano le minacce dalla parte dei responsabili, i ricatti, fanno anche il terrorismo di fronte a una cosa del genere. Se un lavoratore dice io voglio fare le mie 8 ore come da contratto, non esiste proprio per loro. Ho capito. E si tratta di che tipo di contratti che hanno questi lavoratori? Cioè loro hanno il contratto dalla logistica e il trasporto. E si tratta di contratti a tempo indeterminato o di contratti precari? Sono contratti a tempo indeterminato, ma anche contratti a tempo determinato, che li tengono tipo due mesi, tre mesi, e poi li lasciano a casa e assumono altro personale. E quindi chiaramente il ricatto su quello che i lavoratori devono fare diventa molto alto, sia per le sospensioni, immagino, per chi è a tempo indeterminato, che per il non rinnovo del contratto per chi è a tre mesi. Sì, sì. E voi state portando avanti questa lotta davanti ai cancelli del magazzino da tanto tempo? Sì, praticamente sono 12 mesi da quando noi andiamo avanti con questa battaglia. Ma non tanto per fare per migliorare sì anche le condizioni economiche dei lavoratori, ma noi questa battaglia la portiamo avanti anche da mesi per il fatto che un lavoratore è venuto licenziato ingiustamente. È stato licenziato ingiustamente, come ci hai raccontato prima, perché esatto. Aveva appunto reso noto un infortunio, uno dei tanti, che invece la proprietà vuole silenziare. Esatto, perché chi si permette di alzare cosiddetto la testa o per mettere comunque in contrasto quello che succede all'interno del magazzino viene subito o sospeso, lasciato a casa, in questo caso licenziato. Quindi la lotta è cominciata per far riconoscere il SICOBAS come auto-organizzazione dei lavoratori, e poi c'è questa vertenza specifica su questo lavoratore giustificato ingiustamente e sulle condizioni salariali e di sicurezza di tutti. Esatto, esatto. E questa mattina siete in presidio, che partecipazione c'è a questo presidio? Noi abbiamo sui 80 iscritti con il nostro sindacato, e quindi siamo tutti con tutti i lavoratori che siamo davanti ai cancelli a protestare per l'ennesima volta questo loro comportamento, più che altro perché una persona che lavora da 16 anni all'interno del magazzino e da un giorno ad altro, come si è trovato sto ragazzo ad essere licenziato, non è una bella cosa. Sicuramente. Senti, che visibilità ha la lotta in città? Ci sono partecipano alla lotta anche altri luoghi di lavoro, altri lavoratori, altre lavoratrici? Come sta andando avanti la lotta? Sì, praticamente noi abbiamo anche il sostegno dei altri compagni del SICOBAS, abbiamo il sostegno e ogni volta veniamo a sostenere questa battaglia. Senti, vuoi aggiungere ancora qualcosa? Come intendete proseguirla questa lotta? Noi comunque continueremo ad andare avanti con la battaglia fino a quando questo lavoratore non viene reintegrato sul posto di lavoro. Perché noi d'altronde non è che ci interessa di essere riconosciuti come sindacato quando dall'altra parte viene licenziato il lavoratore. Noi più che altro vogliamo il reintegro del lavoratore. Poi sperando sempre che si apri un percorso con loro e che ci possiamo sedere al tavolo e di parlare anche del resto delle problematiche dei lavoratori. Noi continueremo fino alla vittoria perché non molliamo neanche un secondo a questa battaglia, fino a quando non lo porteremo al termine. Vuoi aggiungere ancora qualcosa? Altrimenti magari ci risentiamo più avanti e sì. Buona lotta. Grazie, buona giornata. Ciao. Ciao. E torniamo in studio, magari completando anche un pochino questo intervento che era del 18 maggio, e con un paio di precisazioni magari che noi siamo pure venuti a sapere sulla questione dei colli, per esempio, che quando vengono minacciati di non spostare questi colli, si tratta di cassette da una 20-25 kg l'una da spostare in un'area che non è da un metro, ma di diversi metri, e l'obbligo che hanno è più o meno di 180 colli al minuto. Questo è dai racconti che ci hanno dato direttamente dal picchetto. Inoltre, oltre ai picchetti fuori dal magazzino Maxi D, che non sono solo di protesta, ma sono proprio di blocco del magazzino, perché non entra neanche un camion, e quando ci sono questi blocchi qua durano tutta notte fino alla mattina dopo, e sono circa 200 i camion che rimangono fuori e rimangono struttura. Anche bloccati dentro. Esatto, e rimangono anche bloccati dentro. Oltre a questa attività, gli operai si sono impegnati anche a fare dei blitz direttamente nei supermercati del gruppo Maxi D, che sono quelli di Famila, AEO, di Più, eccetera. Protestando anche all'interno dei supermercati per far sentire la loro voce. Una particolarità che ci hanno raccontato è che se all'inizio i blocchi producevano non solo un danno al magazzino, ma anche al traffico stesso, perché 200 camion fuori, camion che sono di una media di 13 metri l'uno, sono delle code da 2,5 km che non importunano solo al magazzino Maxi D, ma a ben altre realtà. Questa situazione la polizia ha cominciato a gestirla indicando ai camion dove andare a parcheggiare per aspettare la fine del picchetto, e in modo che sulle strade e nell'intorno di Belfiore sembra che non accada niente nelle notti e nelle mattine in cui gli operai bloccano questo magazzino. Questo era solo giusto per completare magari un audio di qualche giorno fa. E inoltre abbiamo anche un aggiornamento del giovedì di questa settimana, e che leggiamo direttamente. I lavoratori della Daxer Faircam SPA dell'Interporto di Bologna, organizzati con il SICOBAS, a seguito di uno sciopero di diversi giorni concluso con un riconoscimento economico e sulle condizioni lavorative, dopo aver portato solidarietà agli studenti accampati nell'Università di Bologna a sostegno della causa palestinese, a partire dall'altra sera hanno interrotto la movimentazione dei colli da e verso Israele in un'azione di concreta solidarietà internazionale e boicottaggio dello Stato sionista. Tale decisione è stata riportata nell'accordo sottoscritto con la Daxer Faircam e con la LHS, società consortile, che gestisce l'appalto. sangue e sudore sopra i sempietrini, nascosti dai tappeti rossi, grandi eventi dei padroni, fabbriche dell'intrattenimento, vetrine del superfluo, costruite sul lavoro nero e sfruttamento. Dietro le quinte ogni concerto, c'è chi scarica bilici per tutto il giorno, chi resta appesa a 20 metri sopra il mondo, chi c'ha le mani spaccate su un ferro ghiacciato d'inverno e rovente d'estate. Correre per ottimizzare i tempi, risparmiare sulla sicurezza, non sull'auto compensi, a sedicenti artisti, caschi gialli, guanti neri, tutta la notte come ladri senza essere visti, poveri cristi, sul crocifisso il liar, in nome dello show business, e non esiste che per questi quattro spicci tocca pure morisce. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi in cambio della vita a un prezzo troppo caro. Per un cane un altro Cristo da un'americana, arruolato a forza a fronte di una guerra muta, celato dietro riflettori accesi, dietro lo spazio dello show vanno in onda tutti i giorni taglio e precariato. Questo denaro è maledetto, morire per un piatto, per un tetto, per stare a galla in questo mondo. Il lavoro è il suo strumento, se vuoi mangiare sclobba e rischi al culo tutti i giorni, questo è il suo ricatto. È la macchina dell'intrattenimento, il tuo cantante preferito non è altro che un prodotto. Progettarlo, impacchettarlo e dargli un costo, venderlo a caro prezzo, realizzare un buon profitto. Questo denaro è maledetto, morire per due spicci al nero, per stare a galla in questo mondo. Il lavoro è il suo strumento, se vuoi mangiare sclobba e rischi al culo tutti i giorni, questo è il suo ricatto. Maledetto denaro, maledetto lavoro, nel vostro lurido spettacolo non c'è decoro. Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi in cambio della vita a un prezzo troppo caro. Maledetto denaro. E se la logistica è un settore economico di vitale importanza nell'economia post-fordista, cioè quella che ha di fatto eliminato i magazzini, perché i magazzini, secondo anche una formula in voga, sono sulle autostrade, sono i camion che girano continuamente, questo turbinoso vorticare di container, di bilici, di mezzi e anche trasporto intermodale, ferrovia, porti, autostrade. La logistica è anche da molto tempo a questa parte una disciplina di guerra, una tecnologia, diciamo, duale, che è un termine che sta tornando in voga rispetto alle mobilitazioni per la Palestina e contro la guerra, ma appunto anche la logistica è estremamente duale, perché come movimentano, vengono movimentate carichi civili, cosiddetti, poi abbiamo anche carichi civili ad uso militare, come possono essere gli approvvigionamenti, però anche la logistica è quella che permette agli eserciti di operare in contesti lontani da quello, diciamo, di tra virgolette casa loro. E questa cosa, diciamo, la stiamo vedendo molto con quello che sta succedendo adesso in Palestina, in particolare col ruolo dei porti. Qua in Italia ci sono stati vari blocchi dei porti, c'è stato il blocco del porto di Salerno e soprattutto alcuni blocchi al porto di Genova, dove diversi sindacati si sono distinti, in particolare poi anche il collettivo autonomo dei lavoratori portuali CALP. Adesso siamo in collegamento con un compagno dell'Assemblea contro guerra e repressione di Genova, che ci parlerà un po' di quello che succede nel porto della città Ligure e della mobilitazione contro il traffico di armi in quello snodo logistico. Ciao, ciao a voi, chi è in ascolto. Dunque, io non lavoro in porto, faccio parte di questa assemblea contro guerra e repressione che ha avuto, diciamo, due cicli, uno prima del Covid e uno dopo il Covid. Abbiamo cominciato nel 2019, diciamo, rispondendo a qualcosa che era successo nel porto di Bilbao, in cui un singolo lavoratore, che nello specifico faceva il pompiere, si è rifiutato di dare l'autorizzazione allo sbarco e all'attracco per motivi di sicurezza a una nave, la Bari, che è una compagnia saudita, una compagnia nazionale saudita, che di fatto copre la tratta fra gli Stati Uniti e i porti sauditi, facendo scalo sia nel Mare del Nord che però anche sia a Genova che a Marsiglia e a Iskenderun in Turchia, e si è specializzata negli anni, sono 8 navi a questa compagnia se non sbaglio, si sono specializzati nel traffico di armi, diciamo, il supporto degli Stati Uniti all'Arabia Saudita è passato in larga parte anche da quelle navi, ed è venuta fuori così, con delle azioni che venivano fatte dal movimento antimilitarista basco, che è molto forte, c'erano dei collettivi di disertori totali, femministe e altri movimenti che si erano messi a bloccare il porto e a cercare di ampliare il discorso anche sulle fabbriche di armi che storicamente sono presenti in territorio basco, e c'erano anche dei collettivi, diciamo, di solidarietà agli immigrati. Noi li abbiamo conosciuti perché poi dopo i primi blocchi che abbiamo fatto abbiamo fatto un giro del nord Italia a presentare un opuscolo che abbiamo scritto in quel periodo, Nessun approdo alla guerra, che parlava proprio del ruolo della Bari nella guerra in Yemen e del flusso di armi che abbiamo cominciato a documentare, soprattutto i portuali ovviamente, da quel periodo. Quello che è successo è che dopo aver scoperto la specificità di questa compagnia, i portuali hanno cominciato a registrare dei passaggi di armi pesanti, armi leggeri, proiettili, carri armati, di tutto da queste navi, e dopo un periodo di semplice documentazione abbiamo deciso di intervenire. Allora il CALP stava ancora in CGL, che è il sindacato che è ultramaggioritario del porto, diciamo il sindacato unico, e è stato proclamato uno sciopero per quella giornata, che è stato spinto a forza, diciamo, anche dal blocco fisico che abbiamo provato a fare fin dalle prime ore del mattino, cioè, entrando nelle aree portuali. Quella è stata la prima e l'unica volta in realtà che siamo riusciti ad arrivare fino in banchina e bloccare una, così in quel caso erano dei generatori giganti in color militare sabbia che andavano alla Guardia Nazionale Saudita. Da allora fino ai tempi recenti, diciamo fino a novembre, nessuna, e questo era un po' l'accordo più o meno formale che era stato fatto in porto dopo quella giornata di mobilitazione, la prima, e non sarebbero più state caricate merci dal porto, continuavano a transitare nella pancia delle Bari, ma non venivano movimenti che caricavano altre merci, cioè tubistica e altro. E questo, diciamo, è stato l'esempio concreto che abbiamo avuto davanti agli occhi, che ci ha un po' fatto scoprire quanto tutta la movimentazione militare passi dalle stesse banchine, spesso sulle stesse navi, delle merci normali che siamo costretti a comprare per sopravvivere. E 99% soltanto l'ultimo chilometro che viene gestito direttamente dai militari, e questo ovviamente apre alla possibilità di interromperlo in qualche modo. I lavoratori del porto sono un po' un'eccezione dal punto di vista di una mobilitazione di lavoratori contro il traffico di armi. A mia memoria, che io conosca, a parte esempi individuali come quello di Bilbao che citavo, il CALP è davvero un'eccezione, perché porre una questione, due in realtà questioni politiche all'interno di un posto di lavoro, perché a fianco alla lotta al traffico di armi sono sempre stati dei militanti antifascisti molto attenti alle dinamiche cittadine, diciamo, cosa che gli ha anche fatti ricevere una accusa di associazione per delinquere con finalità di imbrattamento, esiste anche questo, cosa che poi ovviamente è caduta, che però di fatto ha giustificato un controllo trojan totale di tutto quello che facevano per un anno, proprio nel periodo in cui stavamo facendo questi blocchi. Dunque, il Covid ha cambiato le carte in tavola, perché ha rotto i rapporti che c'erano di solidarietà in città, hanno rimescolato le carte. E l'Assemblea contro la guerra e la repressione, che esiste adesso, è nata a seguito delle mobilitazioni in solidarietà allo sciopero della fame di Alfredo contro il 41 bis in città. Diverse compagne e compagni hanno valutato che la scelta di mettere Alfredo in 41 proprio in quel periodo, nel periodo in cui scoppiava la guerra in Ucraina, in cui tra l'altro si votavano anche i fondi del PNRR, fosse una scelta ben precisa di disciplinamento per preparare la democrazia di guerra che serviva a combattere quella che e sta arrivando e che adesso vediamo molto più chiaramente di spiegarsi intorno a noi. Quindi il 41 bis come carcere di guerra è stato un po' un momento di rilancio di un'iniziativa cittadina sulla guerra, che partisse anche dalla considerazione sulla guerra interna. Da quel momento abbiamo ricominciato a concentrarci sul porto, a guardarlo come un possibile obiettivo delle mobilitazioni, valutando di fatto che gli affari che i terminalisti del porto, in generale i padroni italiani, fanno con i trafficanti di armi, e poi dal 7 ottobre in modo particolarmente evidente di collaborazione con la struttura colonialista israeliana, fosse un buon motivo per cercare di bloccare questi flussi e far pagare, almeno per i giorni in cui riusciamo a mobilitarci, queste collaborazioni, dal punto di vista economico, che è l'unico che i padroni capiscono. Lo abbiamo fatto a novembre, il 10, cogliendo l'occasione di una nuova, eccezionale, per come accennavo prima, movimentazione di materiale bellico sulle banchine del Genoa Metal Terminal, che è quello che ospita regolarmente gli arrivi della Bari, di nuove apparecchiature, dicevo, che in questo caso erano dei radom, dei copriradar, che servono sia per la mimetica di guerra che per la protezione dagli eventi climatici, diciamo. Fatto eccezionale, non succedeva da 3 anni che si caricasse. In più avevamo registrato l'intensificazione dei passaggi della ZIM, la compagnia nazionale israeliana, e abbiamo valutato che fosse necessario, visto quello che stava succedendo a Gaza in seguito all'attacco del 7 ottobre della resistenza palestinese, che ha rimesso in gioco un po' le carte per tutti gli oppressi del mondo, no? Cioè, dopo un anno e mezzo di guerra, dopo più, sentivamo di dover dare una risposta a quello che stava accadendo a Gaza dopo l'attacco del 7 ottobre. E il 10 novembre abbiamo deciso insieme al CAP di lanciare questa giornata di mobilitazione che è riuscita a bloccare varco portuale per una giornata, e poi abbiamo risposto il 23 febbraio alla chiamata che Sicobas e giovani palestinesi d'Italia facevano a mobilitarsi per uno sciopero generale che ha avuto anche una dimensione internazionale e che a Genova è stato declinato di nuovo sullo stesso ragionamento. Spesso abbiamo cercato di inseguire le tempistiche delle navi per dare più specificità ai nostri blocchi, alle nostre azioni, fatto che però è davvero difficile da fare. Le Bari come le ZIM possono spegnere i segnalatori di posizione, arrivare anche giorni, settimane in ritardo, in anticipo per evitare una mobilitazione chiamata. Sono fatti a cui fanno parecchia attenzione. Per esempio, il 15 aprile dagli Stati Uniti è stata fatta una chiamata al blocco economico in solidarietà alla popolazione palestinese per interrompere il genocidio, giornata che è stata riuscita, in diversi posti. Ci sono state azioni in tutti i continenti e soprattutto negli Stati Uniti sono state particolarmente effettive. A Genova abbiamo aderito per riconoscere l'importanza di quella proposta, senza però avere davvero la capacità di bloccare il porto per quella giornata. La ZIM quel giorno è stata ormeggiata in rada per 24 ore, venendo stravanzata da un'altra nave alla banchina di Spinelli, che è quella che la ospita regolarmente. Proprio perché la questura di Genova si aspettava che avremmo fatto un'azione sul porto, quindi diciamo sono molto sensibili alle mobilitazioni di blocco, e quindi la nostra intenzione sarebbe riprovarci. Proprio martedì prossimo ci sarà un'assemblea che lanciamo in città per cercare, entro giugno, l'ultima settimana di giugno, lo decideremo in quell'occasione, di tornare al porto cercando di superare i limiti dei blocchi che abbiamo fatto fino qua. Certo, bloccare i varchi è il tentativo di interrompere questi flussi di merci scendendo su un terreno concreto. Però la capacità dei padroni di riorganizzarsi rende questo tipo di pratiche più vicine al simbolico, spesso che a un effettivo, realistico danno. Vorremmo avvicinarci il più possibile a questo obiettivo, cercando di mettere in gioco le forze che ci saranno per provare a dare del filo da torcere a questo enorme dispositivo che sta la fabbrica più grande della città. Yeah. The people they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means, APAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell beer around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm. But it's too late, we've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. Hitler. White supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there reviving in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The NECPA never ended, the colonizer lied. It's students in tents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law and a reason to call and the police and their squad were the genocide land and your definition hot, destroying every college in Gaza and every mosque, pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all, and fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth, the people out here united never be defeated when freedom's on the horizon, yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'd be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it. La logistica, uno sviluppo, dicevamo, strettamente legato alla guerra, gli stessi, per esempio, i pallet sono stati sperimentati per la guerra di Corea, mentre il container è stato implementato, l'uso del container è stato implementato durante la guerra del Vietnam, per lo spostamento quindi di armi e di vettovagliamenti. Adesso assistiamo a una sorta di toyotismo dell'industria bellica, che è sempre più basato sulla frammentazione della produzione stessa, con una miriade di componenti di per sé innocui, che però una volta assemblati diventano sistemi d'arma, diventano droni, diventano carri armati, diventano armi, e questa frammentazione dell'industria, degli armamenti, è sicuramente un punto di forza da un certo punto di vista, ma è anche una debolezza, perché appunto il bloccare una singola produzione implica un effetto a cascata sull'intera catena logistica e di produzione. Questa mappatura, diciamo, dell'industria armiera la vediamo dalle azioni di blocco, dai sabotaggi, da quello che sta succedendo soprattutto nel mondo anglosassone, negli Stati Uniti, in particolare anche in Gran Bretagna, con l'attività in parte, anche in gran parte, di Palestine Action, un gruppo appunto di azione diretta, che si è focalizzato contro, per esempio, la fabbrica d'armi di droni Helbit Systems e tutti i vari fornitori, chi gli fornisce i magazzini, chi fornisce le componenti per i vari stabilimenti, anche riuscendo a far chiudere uno di questi stabilimenti, almeno uno di questi stabilimenti. Ma adesso, ultimamente, anche in Italia iniziamo a vedere delle proteste contro fabbriche di armi e di morte. Adesso abbiamo in collegamento compagni dell'Assemblea Permanente contro le Guerre di Lecco, che ci parleranno di quello che succede in quella città rispetto alla presenza e all'attività della Fiocchi Munizioni e della mobilitazione contro l'attività di questa fabbrica. Ciao. Ciao. Ciao. Niente, vabbè, per dire in breve, la Fiocchi Munizioni è molto radicata nella città di Lecco perché è nata nel 1876, quindi parliamo di 150 anni di storia di un'azienda che si è saputa destrezzare con i vari padroni del momento, nelle due guerre mondiali, la guerra fredda, la corsa globalizzata anche agli armamenti, e che ha poi avuto la svolta negli ultimi anni di insomma passare a un livello superiore, dove nel dicembre 2022 è stata acquisita per il 70% dalla Czechoslovak Group, che è una holding della guerra, che ha aziende un po' in tutto il mondo, più di 100 aziende, più di 10.000 impiegati, e produce veramente di tutto, da droni, radar, carri armati, razzi, cannoni. E l'aveva acquisito la Fiocchi Munizioni, che fa munizioni generalmente di piccolo calibro, che sono caccia sport e poi per la difesa e anche il militare, in realtà anche calibri NATO. È stata una dichiarato da loro un grandissimo acquisto che gli tornerà in guadagno molto più di quello che hanno speso. Questo ci dà un po' l'orizzonte che la Fiocchi Munizioni, che è sempre stata un'azienda di famiglia, sta prendendo, e anche guardando i dati si vede che nel 2023 è il quattordicesimo posto nell'elenco delle esportazioni militari. In questo elenco ai primi posti ci sono Leonardo, Fincantieri, Iveco Defense, RVM, per dire, quindi un'azienda che in realtà fa oggetti piccoli come la Fiocchi Munizioni ha il 42 milioni di euro di esportazioni, quindi parliamo di una grandissima quantità di proiettili. Il fatturato nel 2022 è arrivato a 200 milioni, quando se vogliamo nel 2005 era 60 milioni, quindi c'è stata proprio una crescita esponenziale, così come i dipendenti sono passati da poco meno di 400 nel 2005 a ben più di 800 ad adesso. Quindi questo un po' per fare il quadro di quello che è la Fiocchi Munizioni nella città di Lecco, che ha 40.000 abitanti. La nostra lotta antimilitarista è partita autunno-inverno dalle mobilitazioni in solidarietà al popolo palestinese, e ci si è voluti dare un'ottica un po' più allargata rispetto a quello che è il quadro geopolitico mondiale internazionale, per trovarci pronti nel momento in cui sarà più necessario, visto che sembra che l'orizzonte sia quello della terza guerra mondiale. E quindi appunto prima di tutto lo studio. La Fiocchi in realtà come gruppo anarchico della Rotina lo stavamo studiando da una decina d'anni, e adesso questi studi sono confluiti nell'Assemblea Permanente contro le Guerre e hanno portato a una buona mobilitazione. Informazione, abbiamo fatto prima del corteo del 18 maggio tante iniziative informative ben partecipate e insomma tanta soddisfazione che finalmente la città di Lecco si sia accorta e abbia protestato rispetto a quello che è questo mostro della guerra in città. Ma se magari ci volete dire qualcosa rispetto al corteo del 18 maggio, come è andato, come si è svolto, quali sono state anche le reazioni nei giorni successivi e anche nei giorni precedenti, com'era il clima in città, insomma. Ma il corteo sicuramente l'obiettivo del corteo era quello di riuscire a puntare il dito finalmente, dopo oltre un secolo e mezzo di storia, contro la Fiocchi Munizioni. La nostra volontà è che questo corteo fosse un momento di inizio, ma fosse un momento forte dove si riusciva a essere in tanti in piazza. In quello sicuramente è riuscito, il corteo ha visto oltre 1.000 persone partecipare, è stato molto variegato come partecipazione, ha dato una risposta alla città notevole, la città è stata militarizzata, avevamo addirittura un elicottero sulla testa, giusto per rendere l'idea di come siamo riusciti a passare un messaggio che quel corteo voleva, andando verso la Fiocchi Munizioni, dare un segnale ben chiaro che in città c'è qualcuno a cui non sta bene per la produzione di morte. Sicuramente le reazioni sono state molto positive, sicuramente chi ha partecipato a quel corteo sente che per una volta la lotta alla Fiocchi potrebbe prendere realmente un cammino. cambio passo, perché quello che è più netto sulla Fiocchia è che in tutti questi anni si è difesa dicendo sempre che quello che produce è caccia e sport. Ancora adesso abbiamo il presidente Fiocchi che continua a dire che non c'entra niente con le guerre, che vende principalmente alla difesa italiana. Diciamo che in questa città non viene percepito come militare la Fiocchi, e il corteo voleva proprio andare in direzione opposta, cioè riuscire per una volta a far capire che Fiocchi uguale guerra, e che quindi per fermare le guerre che avvengono in tutto il mondo bisogna partire da qui e subito. E dobbiamo dire che il risultato è stato molto bello in città, e partendo da questa, da questo corteo sarà sicuramente più facile iniziare ad allargare un orizzonte di lotta che non vede solo la Fiocchi, ma quello che stiamo scoprendo in questi mesi è che Lecco ha un tessuto di aziende che convivono con il militare molto ampio. Ad esempio, una delle, diciamo, degli argomenti che vogliamo assolutamente trattare è che da Lecco partono verso Israele quei macchinari per produrre fossoli. Quindi, perché un'azienda lecchese ha venduto quasi oltre 600.000 euro in macchinari per produrre fossoli. Quindi il genocidio che è nato in Palestina viene fatto con dei proiettili prodotti dalle macchine lecchesi. Quindi questo per dire, visto che è un punto di partenza il corteo, l'obiettivo è stato raggiunto perché la volontà di andare avanti è molto forte in città. Ma e fra l'altro anche la famiglia Fiocchi, uno dei familiari, uno dei membri della famiglia Fiocchi, sappiamo essere candidato anche alle prossime europee con Fratelli d'Italia, anche con un manifesto che aveva fatto, diciamo, abbastanza scalpore, in quanto raffigurava proprio con un fucile, e quindi con una sinergia abbastanza emblematica fra destra di governo sovranista e gli interessi imprenditoriali del complesso militare industriale più becero. Se su questo avete qualcosa da dire, da specificare, anche per chi non è della zona. E il candidato alle europee di Fratelli d'Italia, Fiocchi, è della famiglia, diciamo, però sicuramente al presidente di Fiocchi sta dando molto fastidio questa sua volontà di essere sui manifesti in maniera provocatoria, perché la Fiocchi nella sua storia non ha mai voluto così tanto essere in vista. Voleva produrre in maniera silenziosa, con un legame con la città molto forte. Ecco, anche solo pensiamo a quello che ha fatto la Fiocchi dal 1900, che ha costruito case, quartieri interi per i suoi operai, aveva addirittura un asilo, ha una scuola di formazione professionale intitolata al fondatore della Fiocchi. Quindi alla Fiocchi sta dando molto fastidio, in realtà, secondo noi, questa volontà di essere sulle prime pagine del cugino che vuole essere eletto al Parlamento europeo. E qua ci colleghiamo anche a un discorso più ampio che riguarda anche il tema della giornata di oggi in radio, che è il lavoro. Sicuramente noi adesso ci stiamo scontrando col fatto che parlare contro la Fiocchi vuol dire parlare contro 800 famiglie che vivono di quel lavoro e che in una città di 40.000 abitanti rappresentano una percentuale molto elevata. E sicuramente il ragionamento sugli operai bisogna riuscire a portarlo avanti. Quello che noi stiamo cercando di passare come messaggio principale è che il salario a fine mese non può prescindere da quello che stai producendo, e quindi la voglia è di continuare a dirlo e di vedere cosa si possa smuovere. L'altro giorno, anche durante il corteo, la cosa bella è che arrivati alla conclusione del corteo, che era 20 metri dalla Fiocchi, siamo stati accolti da una serie di persone del quartiere che, nonostante l'allarmismo creato in città, ha voluto accoglierci mettendo la faccia sulla contrarietà ad avere questa ditta di fianco. questo è un primo messaggio che è molto importante per noi, perché fino, essendo parecchi anni che ci occupiamo di fiocchi, abbiamo sempre ricevuto risposte negative a una, diciamo, a una presa di posizione critica verso la fiocchi, perché dava da mangiare a quel quartiere. Mentre con l'avvicinarsi della guerra la sensibilità della gente aumenta, e questo è un'altra dei punti di partenza importanti del corteo. In corteo c'era gente qualunque che, abitando in quel quartiere, ha sentito l'esigenza di essere in piazza per dire no e metterci la faccia direttamente. E rispetto al proseguo della mobilitazione, avete già delle idee? Ci sono stati momenti di confronto? Sta uscendo qualche proposta? Sì, ieri giovedì c'è stato un'assemblea, un altro appuntamento dell'assemblea, dove appunto un po' si sono vagliate varie idee. Sicuramente altri momenti informativi e di lotta contro la fiocchi, ma sicuramente si vuole anche un po' allargare la visione appunto a tutte quelle aziende che fanno parte di quello che si diceva del substrato di produzione di militare nella provincia di Lecco. Sono tante, fanno di tutto, da mescoli di materiali per la prima tra i carri armati, alle gomme dei singoli, fanno partite elettroniche per i radar, fanno moschettoni in braghi per la Conga, che è una linea di arrampicata, fanno moschettoni in braghi per linee militari, dove per tenere il fucile, scalette d'assalto, robe così. Quindi insomma c'è tutto un panorama di che, fra cui appunto anche i produttori di macchinari per produrre proiettili, che insomma meritano sicuramente un'attenzione, meritano di essere tolte da quella pagina di silenzio, che è quello che poi ha fatto andare avanti la fiocchi di questi anni. Oltre alla volontà di continuare, diciamo, lo studio e la denuncia, organizzando il corteo, quello che abbiamo voluto portare come contributo è che non era un corteo di testimonianza, di mera testimonianza, voleva essere un corteo di protesta, perché parlare di un corteo di lotta serviva a bloccare quella fabbrica, mentre un corteo di protesta voleva, diciamo, essere ben determinato nel puntare il dito contro la fabbrica. Per assurdo, quello che abbiamo ottenuto è che in un sabato normale la fiocchi resta aperta per 8 ore, vengono prodotti proiettili, mentre grazie al corteo quel giorno da lì non è uscito un proiettile, non è stato, diciamo, fabbricato nessun proiettile. L'obiettivo per il futuro resta quello di capire come bloccare gli ingranaggi anche apertamente, e come farlo bisognerà crearselo, bisognerà immaginarselo, però l'obiettivo, oltre alla denuncia, resta quella di un intervento attivo per rallentare quantomeno il militare in città. Beh, il fatto che si sia fermato quel giorno lì la produzione è sicuramente un ottimo risultato, e volevo chiederti una cosa riguardo proprio a quella giornata lì, e forse più ai giorni prima, perché volevo chiedere se potevate fare due parole su come è stato gestito preventivamente questo corteo da parte delle forze dell'ordine, perché prima hai accennato al fatto che è stato creato un clima di paura, e nonostante questo alcune persone del quartiere sono comunque scese, alcuni esercizi commerciali non hanno comunque accettato il clima di minaccia e hanno aperto lo stesso, e quindi volevo chiedere un po' com'era andata questa faccenda, insomma. E nella settimana prima, più o meno, i giornali si erano spesi appunto dicendo, appunto cercando un po' di fare allarmismo, corteo degli anarchici, quando in realtà appunto è organizzato da un'assemblea molto composita, conoscendo bene lo stigma che c'è sugli anarchici, che qua invece a Lecco si è riuscito benissimo a superare. hanno fatto dei giri, questo le forze dell'ordine, penso prevalentemente la Digos, da quello che abbiamo capito, nei vari negozi dicendo alla gente di chiudere, che ci sarebbero stati scontri, eccetera, eccetera, ma l'assemblea ha deciso di provare a fare un volantinaggio in quartiere, soprattutto nel quartiere della Fiocchi, per parlare con la gente, spiegare quello che si aveva intenzione di fare, e ci sono stati dei riscontri anche positivi. C'è chi ha messo il volantino sulla vetrina del negozio, c'è chi ha detto vabbè, io chiudo lo stesso perché domani nessuno verrà a fare la spesa, però verrò in corteo. Quindi insomma si è un po' riusciti a, con un contatto diretto, a cercare di smontare quella cosa lì. Beh, grazie per il contributo, e niente, magari ci risentiremo anche su queste stesse frequenze rispetto a come sta andando avanti la vostra mobilitazione. Grazie intanto. Grazie. Grazie, un Ciao, saluto. Grazie. Dove le democrazie fioriscono, controversie fra capitale e lavoro portano spesso alla pratica antisociale degli scioperi. E si possono vedere scene edificanti come queste, dove i lavoratori di una miniera carbonifera dell'Illinois hanno instaurato lo sciopero seduto e trascorrono la giornata nell'ozio più avvilente. Ponte Radio. E siamo in chiusura della puntata, di questa puntata di Ponte Radio, fatta come Radio Eustachio di Verona, e abbiamo visto un po' attraverso questi vari interventi quello che sta succedendo qua in Italia con l'approssimarsi del conflitto, ormai conflitto mondiale strisciante, e con il dispiegarsi del genocidio in Palestina. Vediamo però anche dei segnali comunque che illuminano in qualche maniera l'oscurità attorno a noi, come appunto anche questo intreccio fra rivendicazioni salariali e invece solidarietà internazionalista che parte dai magazzini della logistica, che diventano un piccolo Vietnam per il padronato italiano, nel appunto iniziare di percorsi di lotta contro le fabbriche dove si va oltre in qualche maniera la difesa del posto di lavoro, invece l'attacco al posto di lavoro quando è fonte di morte per altri lavoratori, lavoratrici in paesi neanche troppo lontani come l'Ucraina, con appunto questo anche la possibilità in qualche maniera che i blocchi come quelli del porto di Genova siano attraversati non solo e non soltanto da chi nei porti ci lavora, ma anche da chi semplicemente, tra virgolette semplicemente, è contro l'invio di armi e vuole fare qualcosa di concreto. Al riguardo ricordiamo che dopo quella data del 15 aprile, che è stata anche menzionata nell'intervento da Genova, dagli Stati Uniti, che con queste proteste anche dei campus si presentano sia come il ventre, diciamo, della bestia, sia come anche la forza un po' di propulsione del movimento internazionalista contro la guerra, dagli Stati Uniti, dicevo, esce una nuova proposta di giornata di blocco per il 1 luglio, una data scelta per, diciamo, in opposizione al 4 luglio, alla festa nazionale americana, quindi una data, diciamo, che avrà probabilmente un richiamo soprattutto per gli Stati Uniti, ma questo non è detto, perché come abbiamo provato in questa puntata anche a far ascoltare, la solidarietà internazionalista dei lavoratori e lavoratrici contro guerra e sfruttamento oltrepassa i confini e distrugge le barriere di ogni sorta. E in chiusura di questa puntata di Ponte Radio ne approfittiamo per ricordare che settimana prossima, venerdì all'una, la prossima puntata di Ponte Radio sarà curata da Radio Quar e sarà l'ultima puntata del ciclo di questo mese sul lavoro. E niente, ne approfittiamo anche per insomma della possibilità del segnale delle radio sorelle per mandare un saluto anche ai ristretti che ricevono il segnale. E ciao a tutte e a tutti e alla prossima settimana, buon ascolto. So